ricordate qual è stato uno dei tormentoni degli ultimi mesi? I costi della politica, cioè i privilegi e gli sprechi della casta. Vogliamo vedere se col nuovo anno i buoni propositi si realizzano anche in questo campo? Parliamone intanto in questa puntata speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, con Sergio Rizzo, Renato Mannheimer, Michele Ainis, Piero Angela e naturalmente con me, Roberta Giordano, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.